Iniziamo anche a registrare una zona rossa del tutto atipica, ma d'altronde la zona rossa è fatta così. È la prima volta che andiamo così tanto in ritardo. Ci scusiamo con tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori, però stavamo facendo una cosa fighissima. Ma una roba di quelle che poi finiscono bene, iniziano bene e finiscono meglio. Non riuscivo a dire, oh, devi fare la radio, avete rotto. Non riuscivo, ero troppo proprio, cioè, ero dentro. Presissimi, presissimi, ma non presi male. Ma non presi male, anzi presi bene, perché, come ho scritto poc'anzi in uno dei nostri canali di comunicazione collettiva, siamo saltati nel vuoto e il vuoto ci ha risposto più o meno sti cazzi. Nel senso che abbiamo fatto una bellissima impresa di titanico spessore, lanciandoci nel mondo delle macchine di riciclo della plastica, e siamo atterrati di faccia contro uno scoglio. Ma va bene, ma va bene, ci piace, va bene così. Infatti Gulli ne porta i segni. Esatto, adesso manderemo un po' di foto su Telegram, perché vi ricordiamo potete interagire con noi e disturbarci. Anzi, fatelo, visto che già è entrata Gioia a farlo, quindi non vedo perché non lo facciate voi. Non gliel'avevo ancora detto. Non avevi ancora detto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che c'era anche Gioia da qui con noi. Sì, ma non per volere, no. Ciao, cosa? Qualcuno ti ha detto che puoi parlare? Ma infatti non, cioè, allora, prima di tutto, ma io stacchia... mi prendo lo spazio per parlare. Ma non ce ne frega niente. Pensa, cioè... che, io, pensa che io controllo il mixer. Guarda quanto spazio mi suoi. Abbiamo fatto anche un discorso del genere, poi ve lo racconteremo dopo, riguardo appunto a prendersi degli spazi o definire quello che è uno spazio. Però non rendiamoci seri, assolutamente. Anzi, cazzeggiate ancora più voi di noi. Mandateci messaggi sulla chat Telegram. Quello ce l'hanno fregato qualcuno. Porca non paletta. Voglio fare nomi, ma poi li faccio. Sì, comunque qua la roba sparisce, ritorna, ma va bene lo stesso. Ma non vi preoccupate che c'è Lucchetto, prima o poi Arriverà. Succederà. Aia. Va bene, allora, zona rossa del... Che giorno è oggi? Oggi è il 30 di settembre. Ma poi arriva lo stipendio. È già il 30 di settembre. Gioia, bentornata sulla terra. Dici dove sei stata gli ultimi 7 giorni. Ma a lavorare. Due settimane, quindi negli ultimi 14 giorni, ben 14, sono stata a lavorare. A lavorare. Come? Ciao Beppe. Dov'è che sei stata? A Pordenone. Ma cosa hai fatto? A Pordenone io ho lavorato. Ha lavorato, brava, giusto. Abbiamo organizzato questa fiera che si è tenuta e niente, quindi per due settimane ero reclusa in un mondo parallelo. Questo è veramente il programma più atipico, perché oltre ad avere ospiti non voluti e non richiesti, e questi piombano, abbiamo anche programmi in attesa, perché abbiamo inizio in ritardo e abbiamo qua i lupi con la caina che ci dicono fra poco tocca a noi, capito? E oltretutto i DJ che se ne vanno, cioè gli è proprio Gulli se n'è andato, meno male. Ma non volevo dirlo, l'hai continuiamo detto a tu. Gioia, che cazzo ci fai? Non si è capito, ma forse non lo sa nemmeno lei. Forse è entrata nell'unico programma di Radio ZM simpatico, divertente, bello, affascinante, interessante. Forse l'unico a parte le ribelli che ha la decenza di farla entrare, in realtà. Perché poi magari prova a intrufolarsi anche da Sushi, ma riceve la porta in faccia. Madonna, ma veramente? Invece zona rossa, ma vi ricordiamo, a dire la verità io sono la speaker migliore del mondo. Porta in faccia da Sushi, io mi ricordo solo questo. Poi spezzo una lancia. In realtà la cosa più bella è che abbiamo decretato questa novità, insomma, che già era una novità prima, però ora la ufficializziamo, la rendiamo pubblica. Zona rossa è aperta, nel senso che la noncuranza mia e di Guglielmo, che ogni tanto ci assentiamo per fare una cosa bruttissima che è lavorare, prevede anche che la nostra assenza non sia un limite né per il collettivo né per chiunque voglia prendere le redini di questo programma, che diciamolo e ditelo. È ingestibile assolutamente. Ma fu perché... creato così. Quindi libero. A voi l'arduo compito, è il mercoledì sera, questo si sa. Ma venne creato nell'ottavo giorno della settimana. Certo. Ma no, in realtà è proprio più o meno, perché no, dai, poi mi perdo nell'Amarcord, finisce male. Andiamo avanti. Va bene, siamo già in pista con l'unica telefonata che ci permette questa serata strana, perché purtroppo è andata così. Togliamo la musica. Ah, in tutto questo vediamo... stiamo aspettando le pizze che prima o poi arriveranno. Le mangeremo fredde, naturalmente, a un certo punto. Senti come ruggisce il telefono. Minchia, ormai Guglielmo, cioè... No, è io stomaco. Regia, cioè, guarda, qui ci ammazzo. Ma che ci ammazzo noi? Dai, rispondi al telefono. Starà stiamo già disturbando, vero? Sarà già a campare col bianco. Ma... Intanto dovevamo chiamare un'altra persona. Tra l'altro neanche io so chi prima. Stiamo chiamando. Ma è... Sarà una pronto? Sorpresa. Pronto? Ida. Ciao, Fra, come stai? Stavo cucinando. Stai cucinando? Ma ecco, cosa cucini che mangi soltanto Campari col bianco, scusa? In effetti. Ascolta, ma sei in diretta su Radio ZM. Benvenuto, Francesco! Benvenuto! Dovevi aspettarti qualche agguato di costi, di qualche dada, qualche agguato di questo tipo da noi. Come stai, caro? Cosa cucini? Pasta con la zucca. Buona. Ciao Francesco, sono Lorenzo, benvenuto. Ciao, ciao. A questo punto si presenti anche la terza ospite. Sì, c'è una terza incomoda. Benvenuto. Sì, la terza incomoda. Non lo sai, scusami. Di come ti chiami almeno, no? No, deve scoprirlo. Madonna, ma c'è un momento in cui non broccoli, Gioia? Cioè, è incredibile. Oh, che caldo. Ah, ok. Scusa, ho detto il nome. Scusa. Va bene. Va bene, caro, ma parliamo di immaginari. Io mi sto preparando per... scusa, mi dicono di alzare leggermente la musica. Mi dicono che secondo Kant l'immaginario è ciò dove è il luogo dove c'è la realtà senza la realtà. Tu cosa ne pensi? Può essere una definizione interessante. Cioè, in realtà ci sono come un sacco di altre parole, tipo popolo, ideologia, per dirne due a caso, una quantità di definizioni infinita, ognuno ha la sua versione, ognuno ha i suoi modi di vedere le cose. Però sull'immaginario io un po' ci ho riflettuto su cos'è, cosa non è. Come mai? Come mai ci hai riflettuto? Cosa succede? Cioè, così a caso, svegliandoti, sei battuto in Kant, hai detto. No, non so, una roba tipo trauma da quarantena, una roba del genere. È successo che ho cominciato a pensare. Questo è grave, questo è molto grave, io non lo faccio mai. È grave, incurabile tra l'altro, mi sa. E quindi dicevi? Ma dicevo, secondo me è un immaginario, una sorta di vaghissimo sentimento comune che però legato a un determinato tipo di, ovviamente, un luogo non luogo, cioè stiamo parlando di immaginario legato a, che ne so, il calcio per dire, uh-huh, o l'amore, che ne so, cioè veramente l'argomento è come se fosse la visione condivisa di un po' di persone che a sentire parlare di quell'argomento la vedono in maniera piuttosto confusa però simile, non so come dire, non chiara, non trasparente per tutti, non esplicata, ma comunque sia una sorta di panorama sfumato con delle forme riconoscibili e dei colori simili, non lo so, una roba del genere. Nel frattempo, Francesco, ti chiediamo scusa, ma qui a Zambo qualcuno sta urlando come un pazzo, sembra di essere tornati tipo al 2 di marzo, gente che urla ce la faremo! Ma forte, magari è entrato persino nei microfoni e si è sentito, nella registrazione si sentirà. Noi lo speriamo tantissimo comunque. Sì, ho sentito abbastanza, avete anche sentito il mio brin della pasta? Ma in realtà lo scopriremo nel podcast, perché poi ci sarà un podcast. Ricordiamoci anche che ci sarà un bellissimo podcast che verrà registrato questo sabato. Attenzione, perché questo sabato c'è qualcosa. Noi vogliamo anche provare a parlare un po' di quello. Vogliamo fare pubblicità. Posso scolare la pasta prima? Vabbè, se proprio devi. Dai, un 20 secondi. Ma senti, facciamo così, ti salutiamo, così scoli la pasta, condisci, quando sei a tavola che stai per mangiare ti richiamiamo, che ti disturbiamo ancora di più e siamo contenti. Perfetto, guarda. Gioia, un commento? Ottimo. Niente, ce l'ho io, grazie, ce l'ho io. Gioia, grazie. Ce l'ho io. Fra, tu hai avuto un trauma durante il lockdown. Pensa a una bestemmia, però fa niente. Pensa a gente come Guglielmo che ha un trauma al mese. Tu ne hai avuto uno in lockdown, invece no, Guglielmo non ha uno al mese. Guglielmo non ne ha uno al mese. Perché solo quando c'è la parola di Gullip ti dici la voce? Beh, comunque ci ha messo giù lui. Ha e fatto bene così. Perché la pasta se si scuoce è un casino. È io mi incazzerei un botto. Contro umanità. Comunque è bello avere Gioia in studio che gli chiede un commento e non parla. Io parlo quando voglio. Madonna. Mamma mia. Adesso chiamiamo la persona con cui ce la prenderemo più di tutte, perché non è qua. Dovrebbe essere qua, ma non è qua. Vabbè, potete anche parlare comunque. Stavo cercando di capire cosa stavi facendo. Silenzi, okay, silenzi durante la trasmissione, durante le telefonate. Sono tipici di un'altra trasmissione di Radio ZM che però non dico. Sembra brutto. Buonasera. Dove cazzo sei? Non fare il simpatico, tesoro. Dove sei? Sono a casa oggi. Sei a casa, ecco. Oggi sei a casa, sono in trasferta. Perché sei a casa a studiare? Aspetta, sei a casa a studiare. No, sono a casa a ricordare ai miei genitori che esisto e che ogni tanto torno a casa. Giustamente, perché tutto il resto della settimana lo passi a zonzo. Sì. Bene, adesso ci racconti per filo e per segno dove passi il tempo, così capiamo. Ma passo il tempo la sera a bere, di solito. Ma con ma arriva una voce. Aspetta, c'è una voce, no? Perché a Zona Rossa, al posto tuo, la tua sedia l'ha rubata un'altra persona. Adesso vediamo chi, indovini chi è. Con chi? Ciao Gioia. Ah, ma quindi ci stavi ascoltando, non è vero? In realtà no, però era abbastanza facile. Ho sentito il con chi con la remoscia, anche se non ha la R. Dai! L'ho capito subito. Questa è cattiva. Cinque guadagni skills ogni giorno che passa, ti vediamo crescere da lontano. Comunque, sì. E quindi tu passi tempo a bere, ok? Questo sì, è un problema. Oppure come oggi sono stato anche in assemblea, ho fatto anche un'assemblea. Poi c'è un momento in cui lo dedica alla famiglia. Mi ricordo che ogni tanto faccio politica, ma quello va bene. Poi c'è un momento in cui decidi di dire mi fermo. Darmi il fiume dell'alcol. No, stasera no. Per esempio mi fermo, sto a casa perché è giusto verso la mia famiglia, perché non mi vedono mai, è giusto, certo. Io condivido questa cosa. Ecco, venire a Zona Rossa sarebbe la cosa più blasfema che tu possa fare. L'unico momento lo dedichi a loro, arrivi lì e gli dici io ho del radio e se volete mi ascoltate da lì, giusto? E poi li inviti, che te l'abbiamo già chiesto di portarli tipo mesi fa. Ma io ho già detto, io ve l'ho raccontato, e hanno detto voi, di no. A voi della redazione. Lo capiamo. Che loro l'avevano ascoltata la puntata di Zona Rossa. E poi? Diciamo che ne sono rimasti un po' delusi. Così. Quello è le ribelli. Tu devi ascoltare il podcast di Zona Rossa. Che merda. Hai sbagliato link. No, io penso che potremmo chiamare i genitori di Cigo. Io penso di no. No, non conviene. Che se vengono qua gli do la spontanea volontà. Un tentativo, va bene. Tanto il numero di Guglielmo, perché il mio jack non funziona da mesi ormai. E quindi andiamo avanti così. Adesso io col telefono di Guglielmo andrò a chiamare qualcuno che non è Cigo, perché ora Cigo ci suggerirà una bellissima canzone e poi lo cassiamo male, lo chiamiamo più tardi magari. Ok. E dici la sì, cosa? Dici che canzone vuoi? Allora, io ho in mente una canzone. Cosa stavi facendo, Cigo? Ti abbiamo disturbato? No, avevo appena finito di mangiare, in realtà. Pensa che ancora noi no. Perché siete dei compagni della Madonna. Vero. Dici la canzone, Cigo. Allora, è molto lunga, quindi è come dice anche il titolo, che è Too Long dei Daft Punk. Ah, ma che cremino, ma che bravo. Too Long dei Daft Punk. Esatto, quindi dato che dura 10 minuti. Continua a rubarlo, mi giro, non c'è più. Durando 10 minuti di canzone, quando volete tagliatela tranquillamente. È andato a prendere il vinile perché non ce l'abbiamo qua in... Invece ce l'abbiamo, l'ho trovato. Quindi Cigo, niente, vuoi mandare un messaggio alla nazione? Un messaggio alla nazione? Sì, sei i tempi di punta. Qua è difficile. Un messaggio alla nazione. Soprattutto è difficile dire qualcosa di che sia al contempo stupido e intelligente. Va bene, se le altre sere le passi a bere, è l'unica sera in cui sei a casa, non puoi neanche venire in radio. Mi sembra normale che tu abbia un sacco di cose interessanti da dire. Beh, posso dire che... A posto così, grazie Cigo, ciao. Sentiamo la canzone, ciao Cigo, ci sentiamo dopo, grazie. Ciao, dopo. Beh, allora, Daft Punk Too Long, aspettando di richiamare Francesco. Esatto. Sollevo. It's been much too long. Feel it coming on, the feeling is getting strong. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones. Too long, can you feel it? Too long, or can you feel it? Too long. At last, the long wait is over, the weight is off my shoulder, I'm taking all control. My mind My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Cioè, traccia peggiore non potevi sceglierla. Noi abbiamo deciso di mettere una da 4 minuti del nostro amico Gonzales, che vabbè è un po' un flemma, però l'hai mandata a te. Ovviamente le sneffate arrivano anche in radio. Salutiamo Norberto, salutiamo tutto Zam, Radio ZM, Zona Rossa tutta per voi. Riprendiamo una serie di telefonate e abbiamo pure la domanda della serata, cioè della serata degli ultimi. Allora, com'è sta pasta? Com'è buona? La pasta? Buona, buona, buona. Ma mangi da solo, Fra? Anche quelle volte. No, io odio mangiare da solo, giuro veramente. Non ce la faccio. Ma non hai degli amici? Non so, non ti puoi disegnare dei cartonati da metterti di fianco al tavolo, eh? Così ti sembra di mangiare con Lenin. Io ho dei coinquilini, non è che. Però ti schifano e non vogliono mangiare con te. Cioè, si dicono: no, sì, quello lì è, ti schifano. Quello lì è una zecca. Piacerebbe mangiare con me. Comunque, volevamo spezzare una lancia così e dirci che non vogliamo fare una replica di quello che ci sarà sabato, quindi parliamo completamente di altro. Cioè facciamo perfetto. Finta che non ci sia assolutamente nessun tipo di immaginario. Non c'è più immaginario, siamo nei 90. Se volete vi racconto come ho fatto la pasta. Oh, finalmente un argomento interessante. Zona Rossa, hai 2 minuti, vai. No, cioè pasta con la zucca, raga, tagliate la zucca, buttate in padella, fine. Cioè, nel senso, ah, era una battuta, simpatico, sì, esatto. Simpatico. In realtà noi scherziamo poco e niente, perché questo è veramente il programma più idiota che c'è su Radio ZM e così vogliamo che rimanga. Noi ci sforziamo, a volte io mi esce fuori della cultura e Guglielmo mi picchia, in diretta. Ma stiamo scherzando. In diretta, infatti. Cioè, l'altra volta è successo al contrario, infatti adesso è tumefatto. Esatto, sono tumefattissimo. C'è una domanda da parte della nostra stagista aggiunta, ne abbiamo appena parlato, microfoni spenti. Non pagata. Esatto, e si è voluta aggiungere lei. Mi ha appena parlato. Dai, adesso gli chiediamo. Cosa? Ne abbiamo parlato prima ridendo, fuori onda. Sta ridendo. Per sta una ridendo. Volta che prepariamo una domanda, sta per una volta. E tu hai il coraggio di entrare in questo programma. Rosso Rubino, cioè. non ce la fa, non riesce, non ricorda, nulla. E cosa fai per vivere, Francesco, oltre che elemosinare soldi per delle grafiche? Di cui parleremo sabato. Nient'altro. Ora nient'altro. La zucca quindi l'hai rubata in qualche serra probabilmente. Sì, tra l'altro è bellissima, è proprio una scena, non mi entrava nel sacchetto, quindi ce l'avevo tipo in spalla. Ma no, bellissimo. Back in the days, anni 40, una roba del genere, fantastico. È bello. Proprio bello visto da fuori. È tutta una questione di, cioè tutta una roba di immaginare anni 40, la povertà, bello, dopo guerra. Ma quanto pesava questa zucca? Ecco, arriva a fare la domanda di merda. Sono svegliata. Di cui nessuno frega un cazzo, però ho una figa. Di zucca, infatti è una settimana che mangio zucca. E ti ha risposto, hai sentito? Diventerai arancione. Ti ha risposto? Non ha sentito, puoi ripetere, scusa, è un po' distratta, sta conducendo un programma, ma 3 chili di zucca. Ottimo. Oh. Ottimo, bene. Ma invece bene. Io un'altra cosa ero curioso, visto che noi diamo per scontato un po' troppe cose, ma il pubblico da casa ovviamente no. Da dove ci rispondi, Fra? Dove sei? Collochiamoti. Da Roma, ok, quindi Fra da Roma. A Roma riesce a sbarcare il lunario senza lavorare. Andiamo a Roma. Certo, andiamo a Roma e prendiamo la poltrona. No, andiamo da Fra. Qualcosina lavoro anche nella vita. Non ho capito, scusami. A volte lavoro anche nella vita. A volte per sbaglio. E cosa ti, in cosa ti diletti? Succede che mi paghino facendo il mio lavoro. Ah, ok, ma quindi tu rimani sulla grafica comunque. Ah sì, è quello che mi piace fare. Oh, beh fare quello che figo, ti piace fare, dai. È incredibile. Fighissimo. Comunque. Certo, è anche bellissimo veramente vedere come ogni mese il buco della cintura si allontani. Sempre, tra l'altro non mi sembravi proprio un ragazzo pasciuto, ecco. Appunto. Chissà come fai. Ma senti, dai, raccontaci l'ultimo lavoro che hai fatto. Era lontano 2019 e hai disegnato una grafica per chi? No, non era il 2019, ho fatto tutta la comunicazione per un bar dall'altro di compagna a Firenze e faccio un micro spot pubblicitario. Oh, che storia. Ma quindi fai anche video? No, però nel senso gli ho curato tutta la comunicazione, al DNP si chiama, Firenze, sì. A Ripredi, il quartiere di Orso. Che bomba! Ho capito. Ma mi è sfuggita, penso che volesse chiedertela in realtà Lorenzo, si parlava di Deleuze, rizomi, il ruolo dell'essere umano con la tecnologia. No, in realtà una cosa di cui ero curioso, io faccio video nella vita, quindi... Mi è capitato tantissime volte di avere a che fare con ragazzi che fanno grafica, eccetera. Lavori sempre da solo o a volte ci sono delle volte in cui ti capita di collaborare con qualcuno per qualche idea o progetto? Tipo per esempio quello del locale in questione, eri da solo a lavorare? No, nel senso che ovviamente, cioè, sì, però era tutto concordato con loro, cioè per come lavoro io. Cioè, il modo professionale per lavorare a un progetto, diciamo, su commissione, è che non è che io committente voglio il logo fatto così e tu fammelo, cioè io ti faccio tutto il ragionamento dietro, ti vengo dietro, ti faccio capire che magari fatto così va bene, magari così funziona meno, eccetera eccetera. Quindi in realtà non è che lavori mai da solo. Ok. Ah, insomma, la domanda era un'altra, perché dato che è una persona spregevole, Lorenzo, voleva chiederti se ogni tanto lo fai lavorare con lui, lo fai lavorare con te, perché è un pezzente, ha bisogno di mangiare e tu gli sei simpatico. No, al contrario, in realtà pensavo che lui fosse un pezzente. Ne parleremo sicuramente sabato, però vedere un tipo di grafiche che magari una volta animate potrebbero essere molto interessanti, quindi pensavo che magari c'era già stata qualche collaborazione con qualcuno che fa video. Lo vogliamo, Zona Rossa. Spoilerone detto. Zona Rossa prima dell'intervista di sabato. Attenzione. Spoilerone. Alziamo i microfoni. Attenzione. Cala il silenzio in radio. Vai. No, che quando chiuderò il progetto, a parte vabbè una pubblicazione su come è andata, sto lavorando al film. Al documentario. No, proprio film, cinema, cioè... Oh mio Dio! Ma scusami, il soggetto sarebbe... È la storia che ci hai raccontato te, di quell'immaginario che c'è dietro, di cui parleremo sabato però. Il nuovo comitato di liberazione nazionale? Esatto, quello. La storia del ritrovamento, quello, giusto? Al cinema! Questa è la prima volta che lo dico pubblicamente comunque. Ma vedi, sono di tempo solo tra 5 anni ancora non è successo niente, potete venire a picchiarmi. Però se lo dici vuol dire che è qualcosa che comunque bolle in pentola, o sbaglio? Sì. Ah, benissimo. È il giorno in cui Guglielmo tornerà al cinema. Incredibile. Esatto, a guardare. No, poi c'è tutto in mente dietro, tipo proiezioni clandestine come fanno a Torino, tipo ma ovvio, ma certo, tipo ovvio. Etting, quelle allora, robe sì. Abbiamo comprato un proiettore di recente solo per fare questo. Proietta sui palazzi, proietta fino ai palazzi. L'abbiamo provato sui palazzi. Perfetto, proiettate tutto. Sì, assolutamente. Bene. Mi pare di capire che Gioia vuole proporsi come protagonista femminile. Ci sta. Finalmente è entrata. Dovevi vedere la faccia quando ha detto ci sta. Ci sta. L'avrei presa al volo. Va bene, caro. Noi ti chiediamo come al solito un brano e poi smettiamo di disturbarti, che tanto sabato ti disturberemo in vivo. Oh, come mi diverto. Come ci divertiamo. Sì, sarà molto divertente. Dai, quella che vuoi, qualsiasi. Le giornate sono impegnative, bisogna partire col piede giusto. Vi dico Caffè dei Dalton. Avete presente? Vediamo. Io no, ma sono curioso. Assolutamente no, e non ce l'abbiamo, no. Dobbiamo andare a prenderla nello studio dei vinili, che è in fondo. Va aperta la porta e chiusa. Quindi è Dalton Caffè? Sì, se lo cerchi su YouTube c'è tipo Dalton Boot Boy. Ma che YouTube? Allora, non insultare, che YouTube noi non lo guardiamo mai. Ti facciamo una breve formazione in vista di sabato, intanto che Guglielmo, perché devi capire va che bene. Poi lo vedrai. Qua abbiamo un tot di vinili qua disponibili. Gli altri, e sono infiniti, sono in un'altra stanza. Quindi bisogna adesso Guglielmo, che è in regia oggi, chi in regia fa questo amaro amarissimo lavoro, di andare nella stanza a prendere la canzone e portarla qua. Però temo che in realtà sia uscito veramente da, cioè tipo hanno presentato l'album da poco, quindi non so. Ma l'hanno presentato qua, fra a Zona Rossa. Solo per sì, noi. Sì, solo per noi, solo non per abbiamo noi. Detto a nessuno perché non ci hanno simpatico nessuno, per cui siamo eravamo molto di noi. Quindi wow, tutto questo ottimo. Guglielmo sta andando a cercare la cosa e adesso di solito ci mette un po' perché sono tantissimi e quindi facciamo una domanda evergreen, una di quelle solite. No, ne facciamo un'altra. La falcesa, la falcesa. Cesa, una domanda per Fra. Ma anche Gioia, Gioia. Ma anche Gioia, anche Enke. Francesco, hai una domanda? Per me stesso? Sì, dai, fatti una domanda e datti una risposta. Riuscirò a mangiare la pasta prima che diventi fredda? Ma penso assolutamente no. Tu cosa ne pensi? Sì, sto cominciando a dubitare, però sei tipo 2 chili di pasta, quindi in realtà... No. Vedo che ti senti comunque stai sul leggero a cena. Sì, sì, sì. Ma quindi questo mi fa pensare che tu non conosci quel famosissimo proverbio che dice colazione come il re, pranzo come un signore e cena come un barbone. Ma considera che tutto nella mia vita è tutto condensato solo nella ultima parte, quindi in realtà solo vabbè. Come un barbone, per cui dici questo c'ho e questo faccio. Sì, colazione, caffè, sigarette, pranzo, caffè, sigarette, cena abbondante. Ma quindi questo mi fa significare, cioè secondo me questo significa che tu sei uno per la semplificazione dell'esistente, cioè tu vai sei un po' epicureo, ecco, cioè tu le cose sono così, punto, fine. Sì, va così, è andata così. Interessante, interessante. Gioia, vuoi dirci qualcosa invece di, non so, fare altro mentre nella trasmissione che tu hai chiesto di partecipare? Ma io non ho chiesto nulla. Ma a me sembrava che hai detto vengo anch'io, hai ragione, non hai nemmeno chiesto. No. Esatto, volevo rispondere no, tu no. Il vinile è difficile da trovare. È molto difficile da trovare, ma forse ce la facciamo. E quindi cosa ti diciamo? Che ti lasciamo mangiare in pace la pasta e noi continuiamo a dire cose inutili mentre si carica il tuo brano. Perfetto. Va bene, caro. Ma ci vediamo sabato per pranzo? Ci vediamo sabato per pranzo a Zam? Per pranzo, poi montiamo tutto e la mostra apre alle 5, 4, alle 4, alle 4, alle 4, alle 6 si può sentire la tua viva voce tonante che ci racconta di cosa si tratta. Perfetto. Va bene, caro. Dai. Vedo dal profilo d'onda che il tuo brano è un brano punk di quelli spaccosissimi, perché è tipo un'onda quadrata. No, va bene. Buon ascolto a tutti e tutte, grazie mille Fra, ci vediamo sabato. Ciao, grazie. Ciao. Dammi ultimo te, nasci nel mondo senza un perché. In un cortile o sotto l'acquazzone, con i tuoi amici dentro un portone. 1, 2, 3, giù, salta chi zoppa e a crescere tu. Per quei pugni al muro che hai dato da bambino, per tutti i soldi tranne il tuo vicino. Chiediti tu come stare, chiediti tu come stare. E poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te. Ora, la vita che toglie, la vita che dà. A fianco le coperte si sono fatte fredde. Lo scoglio si consuma, ma il mare non si arrende. Regina, reginella, regina, reginella. La pelle che invecchia non vede di più la stella. Piano, piano, piano il sogno che declina. Nel cuore dei rimpianti in tasca cocaina. Chiediti tu come stai, chiediti tu come stai. E poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te. E poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te. A te. Non è nostra usanza interrompere i brani musicali, ma stasera va così, siamo un po' di fretta. Sì, siamo un po' di fretta, ma poi recuperiamo, anche perché faremo, abbiamo fatto Zone Rosse da 4 ore, raga, cioè dai. Va bene tutto. Dato un caffè, lo ascolteremo comunque, adesso è entrato nella piaciuto. Nostra rotazione dei vinili. Non so se hai notato che quando inseriamo i brani in un certo mobile, modo servizio di maledetto, guarda. Dicevi, sai che Poste Mobile ha avuto un down incredibile in questi giorni? Come mai? Non lo so, però tipo a Snello sono arrivati 100 giga da usare in una settimana in regalo. Mia madre è andata nel panico completamente. Così. Così, il telefono non funziona più. Attenzione, attenzione, ci richiamo. Pronto, Snello? Sì, ma comportati bene che sei in diretta. Bentornato, Snello, Radio ZM. C'è un ritorno pauroso perché Nils è qui con noi. Date un microfono a quell'uomo immediatamente. Gioia, è qui. Molla il tuo microfono. È una questione di famiglia. C'è un colpo di scena. Oh mio Dio, è la prima volta. Questa cosa non è mai successa. È la prima volta, Snello in radio. Molto zona rossa questa cosa. Molto zona rossa. La seconda volta si apre un varco spazio dimensionale. Esatto. Ma tu l'hai capito che non sapevamo niente, ti abbiamo chiamato. E mi hai portato le chiavi di casa, sentite. Ma vedi che ci hanno stordito, perché dovevo venire a quest'ora a portarti le chiavi. Ma no, io lo sapevo. Infatti in realtà potevo prevedere questa cosa, ma mi sono fatto un regalo dimenticandomela, perché è stata un'esperienza bellissima. Già, hai un commento? Meno male, doveva andare così e abbiamo fatto tutto questo casino per farla andare così. Perché sapevamo che saresti entrata, avresti preteso il microfono e tuo fratello è venuto a rubartelo. Era tutto un piano. Ora, Snello, si siede, non va alla Lampi, stavi andando, vero? Stavo andando. No, mi spiace, no, finisci zona rossa con noi, 10 minuti dura ancora. Dai, raga, please. 10 minuti. Abbiamo una domanda da farti. Ce l'ha Guglielmo. No, ce l'ha Guglielmo, va bene. Gioia. Grazie. Niente da fare. Nils. Qual è il tuo immaginario? Il mio immaginario? Anzi, scusami. No, fermati, se ti faccio questa domanda parli per 16 minuti. Cosa significa per te la parola immaginario? Beh, la parola immaginario ha tanti significati. Andando in ordine cronologico, la prima che mi viene in mente è amico immaginario. Io ho tanti amici immaginari. Sì, eh? Sì. Perché non ne hai di reali? Tu no? Ma io non tantissimo. Merda, no. Però, ma sta parlando a uno specchio. Vedi, comunque. Vedi, io supplisco a questa mancanza dettata anche dalla militanza. Scherzavo, no? Dai, perché sei una persona orrenda. Non hai amici, in quel senso. Sì, boh, non lo so. Ma chiamiamo Canita. Chiamiamo Canita. non so, decidere i telespettatori. Allora, non sono telespettatori al massimo, perché televisione qua non c'è niente. Tele in quanto lontani da noi. Ah, certo. Ah, ok. Tele. Vabbè, comunque era una risposta. Grazie, sei stato gentilissimo. Grazie. Vuoi scegliere una canzone per la radio? Esatto. Vorrei scegliere una canzone. Non farmi andare lontano. Un po' quello che vuoi. Ma quello che vuoi. Che sto andando a una riunione di over. Non lo dico. Poi ci ascolti però. Antifauligans dei... Oh, mi hai tolto le parole di bocca, minchia. Ce l'abbiamo. Vorrei salutare Hank. Abbiamo Rigurgito antifascista o... Cos'è? Hank al microfono, raga. Facciamo questo qua, dai, direi che è un bel brano. Usiamo questo. Va bene, grazie ottimo, mille. Ottimo. Grazie mille, Nils. Grazie per l'improvvisata, piacere. Di cui non sapevamo veramente niente. Grazie per le chiavi, anzi me le aggancio perché sennò le lascio qua. E no, quello devi ridarlo purtroppo a Gioia. Ciao ciao. Ai ai ai. Oppure puoi darlo al Cesa, decide. Quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che è merda. I funicolari senza corrente. I cantrichini è merda. Oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi. Servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite, servite Che cosa? Buonasera, buonasera, siamo tornati. Andiamo a chiamare l'unica persona che supporta Nils al mondo e ci parla. Pronto? Di... Ciao Anita. Pronto? Anita. Ciao. Ciao. Sei in diretta? Ma chi è? Ciao Anita, ma no, sul Radio ZM. In questo momento. Sì, ciao, sì. Ciao Radio ZM. Lo sanno ormai, basta dire che sei in diretta subito via. Siamo famosi. Allora Anita, come stai? Benissimo, tu, sono stata oggi a casa tua. Lo so, di te. Le foto. È anche casa mia comunque, eh. Anche di Hank. Non è casa mia, invece sono contento qua, così. Ma è anche casa tua. Ma Anita, ma sai chi che abbiamo chiamato prima? Nils forse. Sì. Che stava andando al direttivo dell'Ampi. Sì, ma poi tra l'altro ci ha fatto una sorpresa perché è passato da Zam. Quindi nell'istante in cui l'abbiamo chiamato, lui ha aperto la porta della radio. Cioè, non era previsto sta cosa. Non è che sei anche te a Zam e adesso apri la porta. No, guarda, io sono a bere una birra con le mie amiche. Ti abbiamo proprio disturbata. Ti abbiamo disturbata. Che vi salutano tutte. Ciao. Ciao amiche di Anita. Diccelo che ti abbiamo disturbata, perché questo è il nostro orgoglio. E tra l'altro siamo nel corso di un'assemblea, se così si può definire, un incontro molto importante. Ah, quindi siamo stati inopportuni. Aspetta, perché la faccia che ha fatto Gioia quando hai finito quella frase è stata incredibile, perché ha pensato dovrei saperlo. Forse dovrei saperlo e non dovevo far chiamare questa persona. È un incontro tra amiche? No, basta, è finito così. L'hanno zittita, non dire un cazzo di niente. Vabbè Anita, quindi in due parole volevamo chiederti che cos'è per te un immaginario, anzi, riformula Gulli. Lorenzo, sai che io non sono noto per essere una persona sensibile e penso che Anita ci abbia lanciato tutti i messaggi possibili e immaginari per dire tipo tagliate questa domanda e passate alla prossima telefonata. Anche perché è arrivata la pizza. Ciao Anita. Non ho capito niente. La gente saluta nel frattempo. Però avrebbe potuto mettere giù e invece no. Allora Anita, la questione è che devi risponderci sinceramente. Possiamo disturbarti 3-4 minuti? Gioia può dirti delle cose inutili? Sì. O no, o è sono meglio... Sono domande intelligenti. Ma perché c'è Isa che parla in questo telefono? Perché? Perché noi non volevamo chiamare Isa, volevamo parlare noi con abbiamo Anita. Chiamato Anita. Ma perché? Poi c'è qualche dubbio che facciamo domande intelligenti? Ma guarda, io... Ma noi siamo un'assemblea, rispondiamo collettivamente in questo momento. Un'assemblea in radio, a me va benissimo. Questa voce è mia familiare, ma non troppo. Sara? Nisia. Ma no, certo, mannaggia, ti chiedo scusa, cara. Ovvio. Chiedo scusa. Dovete starci in tre minuti però nella risposta. Dai, allora può essere collettiva ma in tre minuti. Vai Lorenzo, rifai la domanda. Vai, va bene, diteci. Che cos'è per voi o cosa significa per voi la parola immaginario? Cazzo. Parte il tempo, tre minuti. Una domanda da aperitivo proprio. Facevate le spes, siamo in assemblea, rispondiamo insieme. E adesso, dai, vediamo. Non si sente molto bene, compà. No, è vero, ha ragione. Scusate, arrivo. Era una frase idiota comunque, quindi rispondeteci pure, senza problemi. Comunque sapeva già una figura di merda peggio di noi. non abbiamo capito? No, niente. Allora, guarda, parlo io e poi rispondo alle altre. Il mio immaginario, se devo definire immaginario, è un mondo senza sessismo e senza patriarcato. Allora, secondo me è assolutamente condivisibile e penso anche tutti e tutte ottimo, le persone ottimo. Della radio, ma questo non è il tuo immaginario, cioè, adesso mi spiace che abbia fatto la domanda, ci hanno risposto e noi li correggiamo la risposta, però, cioè, l'immaginario è quel sistema di idee che tu hai nella tua mente e che ti aiuta a organizzare la realtà. Ah, quindi cioè, nessuno può portare la sua idea, cioè la risposta è questa. No, nel senso che non vorrei che voi magari abbiate scambiato immaginario per che cosa vorrei nel mio futuro preferito. È proprio la definizione. La definizione è un insieme di immagini. Va bene, quali, per esempio, se tu hai un insieme di immagini pratiche, perfetto, quali sono? Facci proprio un elenco di tre pratiche e tre concetti. Minchia, ma non si può più bere una birra serenamente. No, da quando abbiamo la Radio Zam, no. È andata. Ogni mercoledì è così, Da quando la vostra amica Greta... Cioè Greta, ma Anita, è la prima volta che chiamiamo Anita. forse no. Però tre, infatti, la domanda è posta male da chi immaginario, perché l'immaginario può essere sia quello che per me ha un immaginario sereno, sia quello che è l'immaginario di una collettività. Cioè, è una domanda molto, per esempio, complicata. Quando l'abbiamo chiesto, quando l'abbiamo chiesto a Nils prima, lui ha pensato alla parola immaginario e ha detto: quando ero piccolo avevo l'amico immaginario e ora me lo porto ancora dietro. Lui ha ricordato questo, no, vabbè, all'inizio. Ma carino. Ma infatti svagate un po' anche con la mente. Se uno pensa alla parola, non tanto alla pratica dell'immaginario, ma alla parola immaginario, a voi cosa suscita? È un mondo diverso, questo sicuramente. Cioè un mondo immaginario, un mondo che non esiste in questo momento. No, qualcosa che ti dà sicurezza, perché se qualcosa che immagini tu, di base uno cerca di immaginare qualcosa che ti rende sereno. Vabbè, comunque in realtà l'immaginario, cioè l'immaginario non lo associo solo ad una cosa positiva, cioè ci sono diversi immaginari relativi a determinati contesti e a determinate idee, pratiche, come diciamo prima, concetti, se volete, che però non devono per forza essere positivi. Giusto. No, i mostri questo, sono immaginari. Questa è una cosa interessante, ma anche molti, le paure sono immaginari. Che conosciamo e che subiamo sono immaginari. Chi è che ha risposto così? Era Anita. Ah, giusto. Mistero. Mi piaceva mistero. Tra l'altro Anita è stata l'unica che ha detto che carino quando abbiamo detto che Nils aveva degli amici immaginari. Ma tra l'altro Nils ha detto che non li ha ancora gli amici immaginari. Non ne ha mai parlato, però ha detto amico immaginario. Ma sono più di uno. Ai. Più di uno. Beh, noi per anni abbiamo pensato che Anita fosse un amico immaginario, poi abbiamo scoperto che in realtà non è vero. Vaffanculo. Ma no, ma perché? Ma è lui che è improbabile. Cioè, tu ti supplizi con questa compagnia, se lo fai tu, ben lungi da me dirti che non puoi farlo. Comunque sappiate che diventerete un podcast, quindi se volete riascoltare le stronzate che abbiamo detto in questi... Gioia, riporta all'ordine questi. Gioia, riporta all'ordine. Ma Gioia proprio, cioè, ma guarda. Proprio, guarda. Guarda, Gioia, di qualcosa. No, dai, che palle! Cioè, non riesce, capito? Gioia, lei dovrebbe portare ordine. Gioia, adesso per favore. Stiamo esagerando. No, vabbè, stiamo esagerando. Comunque, facciamo un passo indietro. Allora, noi abbiamo fatto questa comunque, chiamata. Immaginare l'immaginario significa uscire dal proprio contesto, dalla propria zona di comfort o anche dal proprio ambito di vita, cioè ciò che noi siamo costretti a vivere, immaginiamo come potrebbe essere vivere in una maniera diversa, no? Non a caso si inventano gli amici immaginari, perché gli amici immaginari sono a volte migliori di ciò che nella realtà si vive. Okay, l'immaginario per me è una proiezione al di fuori dalla realtà, e se la realtà ci fa schifo, immaginare è sempre piacevole, ma poi bisogna anche capire come raggiungere quell'immaginario, cioè l'immaginario di per sé non è sufficiente. No, purtroppo non lo è, ma sapete cos'è sufficiente? Sufficiente sapere che sabato alle 18 si terrà la presentazione della mostra sul nuovo Comitato di Liberazione Nazionale. Parleremo di immaginari insieme agli autori, Francesco da Bergamo e i compagni e le compagne di Wellness Press di Milano, per cui a questo punto siete ufficialmente invitate e tutta la domanda, tutta la chiamata nasceva in base a quello. Stiamo facendo pubblicità. Ok, dai, grazie. Aspetta la guarda, canzone. Aspetta, sai dove sono sabato io? Dove sei sabato tu? Sai dove sono? Dove sei? Sono con il mio amico o fidanzato immaginario, Nils, mentre va per Corsiozzi. No, mi in radio, così ci piace, il vai. Mio paese immaginario, ovvero la Germania, con la sorella immaginaria di Nils che si chiama Iris e il suo figlio immaginario. Vabbè, ma quindi ci stai snobbando a costruire il nostro immaginario. Questo è registrato tutto a Leoncavallo ed è molto bella. Bene, lo sappiamo. L'immaginario ci farà anche quella mostra. Bene, allora tu adesso te la sei chiamata, noi ti chiameremo. Sì. Noi sabato ti chiameremo e controlleremo. Te la sei cercata, Anita, mi spiace. Se tu e Nils starete creando il vostro immaginario. Cioè, oddio, detta così sembra una roba tipo vi chiamiamo mentre state facendo cose. No, no, no, ti chiamiamo 5 minuti dopo. Saremo in macchina con la pioggia, però vabbè. Bello. Persone che fanno, vabbè. Va bene. No, abbiamo da chiedere un'ultima cosa. Con la bocca piena. Gioia, c'è da chiedere con la bocca piena. Ascoltatela perché è lei che mette ordine in radio. Mamma sentite mia. Che ordine. Adesso mamma dovete mia. Dirci il titolo di una canzone. Eh? Dovete dirci il titolo di una canzone che volete ascoltare. Ok, venirci un secondo per questa la nostra canzone. La canzone che era una. Dopo che sono tirata, mi ho registrato un pezzo. Allora mettiamo Technicolor dei Tropea. Sì. Bella! Ce l'abbiamo nella... No, devo andare proprio a cercarla. Arriva, intanto, già che ci siamo, Gioia, da dirvi un'altra cosa. Che cosa? Dici Gioia. Dai, dici Gioia. Allora, Lorenzo sta mangiando una pizza con salame piccante. No, aspetta. Quattro formaggi rossa e salame piccante. Giusto. Ah. Verrei tutta la notte. Infatti sarà così. Vabbè, ma invece dove si rifanno le riunioni tra amiche? Cioè, siamo in un bar di Milano. Non è dato sapere. Immaginaria questa riunione. Immaginaria. Mi sa che abbiamo rovinato i piani di qualcuno stasera. Comunque, beh, cosa si beve durante queste riunioni immaginarie? Acqua frizzante. Vodka liscia. Birra e vasca. Birra, bene. Ma tu cos'è che volevi dire oggi sulla plastica? Cos'era la domanda che volevi fare sulla plastica? Ma voi riciclate la plastica? La plastica. Riutilizzate la plastica? No, sempre lo stesso, tutte dallo stesso bicchiere. Ah, preciso. COVID. Esatto, in tempi di COVID forse non una cosa molto intelligente, ma chi sono io per giudicare? Siamo tutte congiunte. Giusto. Bene. Gioia, ho un commento? Dovrebbe essere pronto il vinile. Ma non lo vedo. Però voi sapete come connettervi per ascoltare la canzone che avete chiesto, giusto? Dai, mettete sta canzone. Adesso arriva. La freccia stiamo cercando con la blu. Nella stanza dei vinili. Ah, c'è ragione, scusa. Vabbè, faccio così. Dai. Arriva, è arrivata. Il link della radio lo sapete, ovviamente. Certo. Non ve ne frega una mazza. E noi vi disturberemo ancora finché non imparerete ad ascoltarci. Questa è per voi, Tropea Technicolor. Grazie a tutti e tutte. Ciao. Grazie. Ciao. Vedrai. Questo film finirà e noi, tori di fuoco, bruceremo le stelle, coriandoli. Booster con sopra lei, booster a casa coi miei. Fanale rotto, luci col dimmer, è una vita così. We dream in technicolor, and we burn fast, our dangerous minds. Your eyes on the blinking town, betray the night. Piovigginando sale, sirena Milano centrale, in fondo al mar. Noi, tori di fuoco, elettrici. We dream in technicolor, we burn fast, our cancerous lies. Your eyes. Che canzone che è partita lo stesso, no? Perché stavamo trafficando, intanto lo facciamo. Comunque abbassiamo un po' il volume della song, perché è anche se spacca, porco. È andata, grazie The Cure. No, la prossima volta, grazie. Sì, poi ti chiamo, ciao. E... Guglielmo fa una pausa a cena, un secondo, perché ovviamente non abbiamo cenato, ma a noi ci piace così. E Gioia ci mette sta 3 ore per mangiare una pizza, è iniziato 40 minuti fa praticamente, io e il buon Cesare l'abbiamo ingurgitata. Infatti beata lei che... Se la sta ancora gustando, sta ancora, capisci? Gustando. Esatto, mi ho sbagliato tutto, Cesare. Intanto arriva una voce che non capiamo, forse deve prendere l'altro microfono e comunicare con tutti noi mortali. Adesso, Stefano, che è una persona seria a differenza nostra, salve. Viene in radio a fare un programma, non a dire minchiate. Quindi volevo sapere, lui che è una persona intelligente, se ha voglia di dirci, raccontarci cosa succederà tra poco ai bellissimi microfoni di Radio ZM insozzati dalle nostre immonde voci. Ma così è, così è. Proprio... Sì, di braccio. Dopo di braccio. Torna sulle frequenze di Radio ZM pillole di ecologia. Oh! Abbiamo l'onore di seguire il programma, no, il secondo programma più bello di Radio ZM. Ma il rosso e il verde sono sempre due colori che vanno molto d'accordo. E niente, ci sarà un ospite, un esperto, che intervisteremo telefonicamente. Ah. Un naturalista e esperto di gestione ambientale. Con cui approfondiremo gli effetti del cambiamento climatico in pianura padana. Ma è tutto questo è incredibile. Cosa è cambiato da qualche decennio fa, quali sono le previsioni degli studi scientifici che sono stati fatti per i prossimi anni, insomma i prossimi 100 anni, 50 anni, e così. Comunque Lorenzo, hai notato la differenza? Noi quale chiamiamo Nils, lui chiama un esperto, poi mi fare delle domande. Beh, effettivamente io ringrazio un sacco la redazione per non averci ancora cacciato, perché in tutto questo noi Zona Rossa andiamo avanti perché portiamo avanti la bandiera che è finito il lockdown ma non la pandemia, e questo prima o poi comparirà nelle corde di questo programma. Io me lo sento che Guglielmo si sta avvicinando a leggere gli articoli del Tascabile, raga. Cioè, oggi mi ha mandato un articolo del Tascabile, si sta acculturando. È possibile che potremmo diventare un programma serio? Come oltre che essere un villano, sei anche un pezzetto. Come lo pensavo io una volta. Un pusillanime. Non diteglielo, sei un però, non diteglielo perché altrimenti. Comunque, stavamo facendo anche una cosa tecnica. In quel caso, devi schiacciare più e individuare perché quali sono. ZM è l'unica radio che fa regia in diretta. Le tracce che anche voi. Hai zippato prima le devi individuare. Posso oppure fare la voce fuori, poi benissimo. Scalico e dirvi che Lorenzo spiegò a Stefano tutto ciò di cui c'era bisogno di sapere. Potresti fare una trasmissione perfetta. Andare. Ho capito. Devo anche inventarmi le cose mentre parlo. Cioè, nel frattempo, dall'altra parte del tavolo, Gioia si preparava una sigaretta. Con fare sontuoso, con fare guardingo, rollava il tabacco, pensando, chissà cosa faccio stasera. Potrei flirtare con la 35esima persona oggi. Ma no, non lo farà. Non lo farà. Penserà al suo lavoro e ai suoi studi, alla facoltà di Urbino, a quel treno che l'ha portata così dolcemente dalla città del centro Italia fino di nuovo al nord, là dove può trovare i suoi affetti all'interno del centro sociale, uno spazio occupato di cui lei si occupa da tanti anni. Gioia ha i capelli rosso rame, ma questo non significa che possa condurre bene l'elettricità. Come noi potrebbe morire se riceve una scossa, e quindi sa bene che non deve infilare le dita nelle prese. Anche voi ragazzi e ragazze a casa, bambini e bambine, non mettete le dita nella presa come potrebbe fare Gioia dei capelli di rame, perché non siete dei conduttori, non siete delle conduttrici, non fate TV, ma siete delle brave persone. La cosa bella è che mentre dicevo tutto questo, che è abbastanza incredibile che abbia detto questo, loro non mi hanno cagato assolutamente, ma mi ascolteranno quando ci sarà il podcast, perché Radio ZM ha dei meravigliosi podcast editati dal buon Lorenzo, create dalle nostre voci e dai nostri programmi radiofonici. Li potete ascoltare su Archive, che tra l'altro abbiamo scoperto essere un portale molto molto fico, che fa molte molte più cose di essere soltanto uno storage di file multimediali. Storage, giusto. È un archivio. Però Archive, ripeto la parola archivio, mi sembrava un po' scorretto in radio. Posso però dirti, cara amica Gioia dai capelli di rame, che non sei una conduttrice perché tu non la fai la fine della starlet in TV, che a breve potrebbe essere lanciato il primo crimine di Radio ZM. Noi inizieremo a fare delle cose molto interessanti, cioè potremmo diffondere delle lezioni universitarie. Addirittura. Esatto, che nella loro intenzione erano ristrette a un numero chiuso di studenti che hanno pagato per frequentarle. Noi siamo riusciti a sgraffignare gli accessi e per cui dovremmo riuscire a trasmettere a breve lezioni universitarie di altissimo livello. con cose interessanti come femminismo, studi critici sul colonialismo, sulla psicologia critica, cose molto molto belle e che libereremo grazie di nuovo all'aiuto della UNIT, che ci darà dei potenti mezzi per farlo, e a Lorenzo che si copierà 250 milioni di video. Ma il reato non lo fa lui, lo fa qualcun altro. Esatto, esatto, lo fanno qualcun altro. Quindi un po' gli aggiornamenti sono questi, perché Zona Rossa vuole essere anche questo, vuole essere anche pubblicità in generale, perché ci piace così, e gli aggiornamenti sono molto succulenti, nel senso che settimana scorsa abbiamo fatto un bellissimo incontro pubblico di formazione e anche di assemblea per decidere quale sarà il futuro del palinsesto radiofonico, e devo dire che è molto gozzo, nel senso che si aggiunge la cosa di cui vi ha appena parlato Guglielmo, e si aggiunge anche una cosa a cui stiamo lavorando per adesso in post-produzione, ma che prenderà luce secondo me tra un mese, che si chiama Gli Occhi del Cuore, ed è un programma radiofonico in cui noi campioniamo dei film e ve li mandiamo in diretta, soltanto l'audio. Poi ci inventeremo magari qualcosa di simpatico da fare, come per esempio che film vorresti che fosse mandato in onda, e sta a voi capire ovviamente che tipo di film si presta per una radio, perché non tutti i film ovviamente. Vogliamo tralasciare le cose che conoscono tutti, cioè non ci presenteremo con L'Odio come primo film, perché mi sembra un po' scontato, o con Ritorno al Futuro, o con altre cose, diciamo, che tutti hanno già visto, perché eccetera. Perché non mettiamo Powanacquazzi? E infatti, un film facilissimo, guarda che spoiler, un secondo spoiler di Zona Rossa, sto infame, ha citato uno dei tre film che compongono la trilogia Scazzi. Quazzi. Gazzi, quazzi, leggetelo come vi pare, di Goffri Reggio, che, scazzi, che e poi in questo momento la radio sta diventando una mezza chiesa, perché si è aperto il cielo nel momento in cui ho nominato uno dei maestri del cinema che conosciamo fino adesso, e vi consiglio di andare a vedervi la trilogia Cazzi, che è composto da Cogliani Scazzi e altri due che non riesco a pronunciare, quindi evito. E ne rimarrete sorpresi. Ne rimarrete sorpresi. E pensate che questo è nella selezione della rosa dei 5 film che verranno mandati negli Occhi del Cuore, il nuovo programma di Radio ZM. Perché è un film senza dialoghi, praticamente, è solo musica. Però che musica! Che musica della Madonna! Che musica della Madonna. Quindi largo proprio così alla fantasia. Ci sentiremo anche per questa cosa. Altre cose belle da radio? Ma. C'è la proposta di Eleonora anche delle inchieste, e di fare questo programma di inchieste, che anche questo vedrà la luce tra un bel po', perché vogliono prima iniziare a fare archivio e poi a decidere che tipo di programmi, di puntate fare specifiche, e tutti i programmi che vanno avanti sono già in palinsesto. A prestissimo per nuove notizie, e io basta, non possiamo fare altra pubblicità, qualsiasi cosa. A breve torneranno anche le Ribelli, vero Gioia? Esatto. Gioia è una ragazza di poche parole. Sì, ma solo la Zona Rossa, però. Comunque. Esatto. Ha ricevuto, tu non lo sai, ha scritto un'ascoltatrice, ha detto che è una delle più brave. Ah, sì? Sì. Hai capito? Vai sì, vedere salutiamo, il messaggio. Salutiamo Leda. Sì, sì. Poi. Dai, adesso voglio vedere il messaggio. No, non su Telegram, mi ha scritto a me perché la conosco io, questa ascoltatrice. Ah. Ha detto di a Gioia che è una delle più brave. Chiaro. Di tutta la radio. Chiaro. Gestacci che partono in radio così. Chissà come mai nessuno scrive mai a noi. Ma guarda che. Quando ci scrivono sono tipo sette idioti. Ma io gli ubriaconi. Io lo so che i feedback sono positivi, e comunque sia rimaniamo originali, perché una stronzata del genere non la fa nessuno. Zona Rossa ce l'abbiamo solo noi a Radio ZM. Esatto. Nessun altro. Quanto facciamo scandali? Hai visto oggi? Abbiamo disturbato un aperitivo assemblea. Ma vero no? Perfetto. Prima o poi bloccheremo le navi. Ma tu Lorenzo ci pensi quanto siamo Zona Rossa? Cioè è incredibile. Noi siamo veramente. Invece si chiama Nils arriva. Esatto, cioè, veramente sono perplesso. La realtà supera la finzione. Io farei l'ultima telefonata della serata, e farei scegliere l'ultima canzone a quel pusillanime lì, il solito. Ma chi? Quello che tanto qua sono spariti nelle sedie. Quello che chiamiamo spesso e volentieri, purtroppo, per fortuna, che è nostro amico. Però gli dobbiamo tante cose. Poi sta crescendo bene, insomma, si diverte. Sta crescendo bene, non lo so. Io invece penso proprio di sì. Quindi confondi un po' di termini, Lorenzo. Mi abbassi un po' le cuffie, che mi sto sentendo tipo anche l'altro universo. Ti stai stordendo. Mamma mia. Meglio? Poi già la mia voce non mi piace. No, non è quella. Meraviglioso. Niente, ha capito. Poi doveva fare finta di sai cosa sta facendo? Sta perdendo la burachina settimanale. Ma certo, è ovvio, sì. Però sì, lo tengono proprio in scacco, perché ogni volta anche noi, vabbè, Gioia, la scegliete. No, la scegliamo, è già scelta, mettiamo la sigla adesso. Risponde la segreteria telefonica. Ma segnale, di 3, 2. Non devi smetterla, non devi smetterla. Non diciamo il suo numero, perché con tutte le donne che gli uomini che gli girano dietro potrebbe ricevere delle 1000 telefonate domani. Se attenzione. È pubblico il numero. Attenzione. O no? Piricchino. Stai allungando troppo, Lorenzo. Cigo, ragazzo riservato. Vabbè. Prego, mettiamo. Cosa? Ah, sì, la sigla, eh? Cosa? No, è un segreto, la metto io. Cosa metti tu? Cosa? No, la metti dopo la sigla. Appunto, lo sappiamo. Noi vogliamo mettere la sigla. Noi vogliamo mettere la sigla. Mettiamo la sigla. Finisce Zona Rossa, un brano di Gioia e poi si va con Pillole di Ecologia. Ma tanto, ragazzi, cosa sta passando sotto? Che meraviglia. Strauss. Madonna. Ma quanto sono bravo che ho messo la musica classica in radio? Non l'ha messa nessuno, l'ho messa solo io. No, zio, no. Che cosa hai messo, dici? Cosa hai messo? Hai messo solo drum and bass e i Bloody Beetroots. Due cose hai messo. Sei un poveretto. La classica l'ho messa hai io, uno spirito zio, arido. Stai scherzando. Assomiglia a Norberto. Ma proprio, ma spostati male. Ripeto, assomiglia a Norberto, vorrei che tu la smettessi e riflettessi su questo insulto. Quindi ci salutiamo con questa cremina, perché ci mancava. La sto riguardando a casa. Bravo. Saluto a casa, saluto Davide, Gioia ce l'avevo qua, quindi non saluto nessun altro di Gioia. Saluto Ale, ciao Gioia. Ciao Gulli, grazie Cesa. Ci vediamo sabato. Pazienza, ci vediamo sabato. Ci sentiamo sabato. Radio ZM. Quindi cosa facciamo? Sì, verso le 18, no, 17:30 ci colleghiamo, ci dire cazzate, esatto. Poi alle 18 si parte. Più così. Via. Trasferiremo la radio giù in sala. Facciamo un salotto pre-presentazione. Facciamo... salotto di Zona Rossa. Io sono qua dalla mattina attento, addirittura. Facciamo dopo pranzo, quando stiamo bevendo il caffè, iniziamo a connettere. Dai. Di maratona di mentana, ma esatto. Guarda che prima o poi la facciamo con maratona di minchiate. Telefono. Esatto. Maratona di minchiate. Perfetto. La sigla tutta per voi, Zona Rossa vi vuole bene. Ciao a tutti. Ciao.